GR Europa. Un saluto da Gigi Donelli. Nuove regole comuni per il calcolo della popolazione residente nei 27 stati membri dell'UE sono state approvate dall'Europarlamento, che ha però rinviato il vero voto con l'obiettivo di cercare prima un'intesa con il Consiglio dell'Unione. Le nuove norme sono infatti cruciali in quanto le persone residenti in un determinato paese dell'UE ne determinano il peso nei voti, a maggioranza qualificata nel processo legislativo, ma anche l'ammontare dei fondi UE a cui questi hanno diritto. Insomma, una partita tutt'altro che secondaria, che si gioca con regole di contabilità demografica che sono diverse in ciascuno dei 27 paesi. L'eurodeputato della Lega Nord Mario Borghezio ha denunciato alla Commissione europea quella che definisce una brutale aggressione lobbistica perpetrata da due giganti dell'industria biotech, Syngenta e Bayer, per impedire l'interdizione temporanea nell'UE di tre pesticidi neonicotinoidi prodotti killer delle api. L'attività lobbistica, scrive l'eurodeputato, è giunta al punto di tentare di far modificare il comunicato stampa dell'autorità europea per la sicurezza alimentare. L'euro come una minaccia, George Osborne all'attacco del progetto di indipendenza della Scozia. Il cancelliere dello scacchiere britannico ha avvertito Edimburgo che se lascerà il Regno Unito non potrà mantenere la sterlina, ma dovrà entrare a far parte dell'eurozona oppure trovarsi una nuova valuta. Restare nell'unione economica e politica con l'Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord è il prezzo da pagare per mantenere la sterlina. E infine, una larga maggioranza di eurodeputati si è espressa ancora una volta contro il regime di doppia sede del Parlamento europeo, che quotidianamente lavora a Bruxelles, ma che ogni mese si trasferisce a Strasburgo per la plenaria e inoltre a Lussemburgo la sede di alcuni servizi amministrativi. Nel corso delle votazioni sui bilanci di tutte le istituzioni europee sono stati approvati due emendamenti presentati dal toscano Claudio Morganti, ex leghista, ora iscritto come indipendente nel gruppo euroscettico EFD, in cui si esorta i 27 a riconsiderare la questione relativa alla sede del Parlamento e ai suoi luoghi di lavoro. Bene, con questa notizia abbiamo concluso. Naturalmente GR Europa torna domani poco dopo le 15. GR Europa è sostenuto dal Parlamento europeo. Info su radio24.it.